Letture di Radio 24. La Parigi di Marcel Proust, che emerge dal libro di Henry Raksimov, pubblicato in Italia da Excelsior 1881, è essenzialmente quella della Rive Droite, la Parigi dei bei quartieri nei quali l'autore de Il tempo ritrovato era nato e vissuto. Sono gli stessi luoghi dove aveva ambientato la maggior parte dei suoi romanzi, Saint-Honoré, Place de la Concorde, Il Bois de Boulogne, L'Étoile. Tutto avvenne così discretamente che pochi se ne accorsero. Quell'eterno giovanotto dai grandi occhi orientali, incastonati in un pallore lunare, scomparve poco a poco dal frivolo turbinio della vita mondana per riapparire a tratti, inaspettatamente, quando la notte gli garantiva l'artificialità di cui aveva bisogno per sopravvivere. Un etologo, esaminando il caso di Marcel Proust come quello di un esotico animale, avrebbe potuto spiegare che il suo fisico non era fatto per la vita all'aperto, come dimostrava l'asma sempre pronta ad assalirlo. Per questo quella strana specie di umano era costretto a passare molto tempo nella sua tana, foderata di sughero per proteggerlo dai rumori. Eppure non era cieco come una talpa, anzi i suoi sensi risultavano straordinariamente più sviluppati di quelli di qualsiasi esemplare della stessa specie. Ma la sua facoltà più impressionante era un'altra, la memoria, che man mano che Proust si ritirava da Parigi, gli apriva una strada emozionante e tortuosa per l'altra città, quella Parigi sotterranea del passato, che il tempo arricchiva senza sosta. Gran parte della ricerca del tempo perduto si svolge, spiega Raksimov, nel quadrilatero che va dal Parc Monceau a Place de la Concorde, fino al Bois de Boulogne e all'Étoile. Malgrado la presenza di eccentriche del calibro di Sarah Bernhardt o Isadora Duncan, il quartiere Monceau è rimasto quello che era all'inizio, una tranquilla zona residenziale, frutto della speculazione della seconda metà dell'Ottocento. A dare il tono era, ed è, la grande borghesia, cui la famiglia Proust apparteneva di diritto per la sua ricchezza e per la rinomanza del padre, medico di fama internazionale. A fianco di un negozio di calzature, al numero 9 di Boulevard Malesherbes, un'ampia strada urlata di castagni cariche di foglie, c'è un austero edificio ottocentesco. Entrando nel cortile, si vedono le finestre di Proust. È il primo piano a sinistra. Marcel non amava quel quartiere, uno dei punti più squallidi della città, in cui avrebbe passato gran parte della sua vita, ma apprezzava la cupola viola e a volte rossastra della recente chiesa di Saint-Augustin. La sua dimora successiva si trovava poco lontano, al 45 di Rue de Courcelles. L'ingresso è molto più fastoso del precedente. Lucide colonne incorniciano i marmi policromi delle pareti. Un altro appartamento è all'8 bis della Rue Laurent Pichat, una piccola traversa sinuosa ed elegante della sfarzosa Avenue Foch. L'ultima, al 44 della Rue Hamelin, oggi è un albergo, a pochi passi dall'Arc du Triomphe. Esiste ancora, sempre in zona, l'Hôtel Marigny, la casa chiusa per omosessuali, all'11 di Rue de l'Arcade. Alla cassa sedeva Monsieur Albert, incorniciato da un assortimento di guanti di spugna, profumi e bambole oscene. Il tenutario accoglieva premurosamente Proust, che aveva finanziato la sua impresa. Lo scrittore provava un particolare piacere a far prendere in giro dai giovinastri del bordello le foto delle sue nobili amiche. Lì una volta fu fermato dalla polizia mentre beveva champagne con i prostituti. Durante la guerra, Proust cominciò a frequentare il più lussuoso albergo della capitale, il Ritz, in Place Vendôme. Le cene erano preparate dagli inviti telefonici di Céleste. Il signore si scusa di non poter parlare lui stesso al signore, ma sta così male. Il signor Proust fa domandare al signore con chi gli piacerebbe cenare al Ritz. Spesso si trattava di convocare delle persone assenti da anni dalla vita di Marcel, cui occorreva rivederle per un particolare del romanzo. Lo scrittore arrivava sul taxi del marito di Céleste, Odilon. Era un'anziana Renault, di cui l'autista si vergognava un poco, ma Proust si era opposto all'idea di cambiarla. «No, no, Odilon, non voglio che lei cambi macchina. Mi piace il suo taxi. Mi ci sento perfettamente a mio agio. E poi ormai ci ho fatto l'abitudine. Non ho bisogno di essere notato quando passo». Lo si vedeva sorgere, con almeno un'ora di ritardo, dal lungo corridoio del Ritz, assorto e smarrito, riluttante a scendere dal suo sogno, come un aviatore che esita ad atterrare. Quando si sedeva, subito si formava intorno a lui una corona di camerieri, sedotti dalla sua gentilezza quanto dalla sua prodigalità. Talvolta, sempre senza togliersi il pesante pastrano, rompeva l'abituale digiuno per mangiare una torta, bevendo parecchi caffè, per poi finire con due bocconi di insalata russa. Lo splendore orientale degli ampi occhi scuri, cerchiati dall'insonnia, veniva accentuato dal pallore estremo del volto emaciato. Una sera, uscendo dal Ritz, avendo ormai esaurito i contanti nelle larghissime mance, chiese al portiere gallonato: «Potreste prestarmi 50 franchi?» Per poi respingerli, dicendo: «No, grazie, potete tenerli, erano per voi». Il 31 gennaio 1913, in una tregua dell'asma, Proust si infilò sulla camicia da notte il cappotto foderato di pelliccia e si fece portare davanti alla cattedrale di Notre Dame, dove rimase 2 ore al freddo, a guardare le statue degli apostoli scolpite sul portale di Saint-Anne, dove da 8 secoli c'è un'umanità molto più affascinante di quella che ci capita di incontrare. Avete ascoltato la lettura di un commento di Giuseppe Scaraffia al libro di Henri Raksimov, La Parigi di Marcel Proust, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. A partire dal 1939, Giovannino Guareschi pubblica prima su Bertoldo e poi su Candido una rubrica che nel corso del tempo si trasforma in un diario di quello che avviene all'interno della sua famiglia. Cronache e aneddoti che hanno per protagonisti la moglie Margherita, i figli Albertino e Passionaria, la collaboratrice familiare Jo. Personaggi attraverso i quali l'autore di Don Camillo e Peppone fotografa la realtà delle famiglie italiane del dopoguerra. Una realtà che negli anni 60 è, nel bene e nel male, condizionata dal nuovo elettrodomestico entrato di prepotenza nelle case degli italiani, la televisione. E non a caso, la nuova rubrica pubblicata sul settimanale Oggi a partire dal 1964 si chiama Telecorrierino delle famiglie. Aleggiava nell'aria la stanchezza dell'estate e dalla finestra del tinello guardavo i campi brulicanti di gente agitata. Erano arrivati a Torme da ogni parte perché era incominciato il massacro che in quel solo primo giorno avrebbe distrutta la metà della selvaggina esistente. Sparavano su tutto ciò che vedevano muoversi, sui cani e sui cacciatori che battevano i cespugli, sui contadini che protestavano vedendo le colture calpestate e le viti cariche d'uva sbrindellate dai colpi di schioppo. «E lui non va a caccia?» mi domandò Jo, la giovane collaboratrice familiare che regge il timone della nostra squinternata barca domestica. «Per ora no, forse quando si potrà andare a caccia di cacciatori», risposi mentre alcuni pallini morti crepitavano contro gli spessi cristalli della finestra. Incominciò a scrosciare la pioggia e la strage fu interrotta. Rimasero soltanto, in mezzo a un prato d'erba medica, 3 cacciatori intenti a picchiarsi perché ognuno d'essi asseriva ad averla colpita lui, la lepre. Poi arrivò l'affittuario a prendersi la lepre con lo stupido preteso che era uno dei suoi conigli. E allora, davanti a tale inaudita pretesa, i 3 cacciatori si buttarono tutti sul contadino. «Bisogna comprenderli», osservò Margherita. «Vengono dalla città tumultuosa e hanno bisogno di rilassarsi un po'». In quel momento bussarono e Gio andò ad aprire. «È arrivato il fenomeno», annunciò rientrando. «Il fenomeno è una cosa del peso di 5 chili veramente fenomenale perché, pur non superando i 3 mesi di vita, riesce a fare cose meravigliose. Come dire, muovere le gambette, sorridere, mettersi le manine in bocca, succhiare il latte, eccetera. E anche per quanto riguarda l'eccetera, che non posso precisare per non essere accusato di volgarità, siamo sempre nel campo del prodigioso». Arrivò il fenomeno, anzi la fenomena, tra le braccia della madre. «Posso lasciarla qui mezz'ora?» domandò la giovane signora. «Dipende dalla commissione interna», risposi allargando le braccia. La commissione interna considerò la fenomena, la prese in consegna e rispose: «Purché non diventi un'abitudine, la può lasciare». Mi avvicinai a Joe e la fenomena, non appena le giunsi a tiro, mi agguantò saldamente per i baffi. Era un'attestazione di particolare simpatia e Margherita si adombrò. «Con me non ha mai fatto un gesto così confidenziale», si rammaricò. «Forse dipende dal fatto che tu non hai i baffi», la consolai. «Credo proprio che sia così», rispose Margherita. Però si capiva che le dispiaceva di non avere i baffi anche lei. La fenomena incominciò a protestare per ragioni sue personali, E siccome ogni tentativo di ridurla alla ragione risultava vano, Joe accese il televisore e si sedette, con la fenomena in braccio davanti al teleschermo. Accadde allora qualcosa di orrendo. Non appena il teleschermo si popolò di immagini in movimento, la fenomena smise di piangere e, ansimando eccitatissima e con gli occhi sbarrati, prese ad agitare freneticamente braccia e gambette. La fenomena riprese a urlare disperatamente. «Perché?» mi rimproverò Joe, spalleggiata da Margherita. «Per un bambino è meglio piangere senza TV che ridere guardando la TV. Tu, Joe, leggi soltanto i pettegolezzi sulle dive e non sai, per esempio, i risultati terrificanti di un'inchiesta condotta in Inghilterra. Un inglese nato nel 1960 e che arrivasse ai 75 anni passerebbe ben 11 anni della sua vita davanti al televisore. E a lui cosa importa?» replicò Joe. «La sua nipotina non è inglese. È un essere umano fatto come tutti gli altri», risposi. «L'umanità è terrorizzata dal pericolo della bomba atomica, ma il vero pericolo del secolo è la TV. Il bambino, invece di guardare il mondo, si abitua a guardare la TV, che è tanto comoda perché porta il mondo in casa. Ma quale mondo? Mi pare che ci sia soltanto un mondo», borbottò la ragazza. «No, il mondo che la TV porta in casa è un mondo fasullo, un mondo costruito su misura per servire gli interessi morali, spirituali, commerciali e politici dei funzionari della TV e dei loro padroni. Tutto, attraverso la TV, viene falsato irrimediabilmente perché la TV non ha concorrenti. La mammina che, per fare star tranquillo il pupolo, piazza davanti al televisore, abbandona quel piccolo essere indifeso alla balia dei bottegai e dei politicanti che gli imporranno il loro mondo e le loro idee. Ha detto bene chi ha chiamato la TV oppio dei popoli. Ma dico più giusto io quando affermo che la TV è la fabbrica dei cretini». Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giovannino Guareschi, «La TV è l'oppio dei popoli», dal libro «La famiglia Guareschi, racconti di una famiglia qualunque», 1953-1968, a cura di Alberto e Carlotta Guareschi, Rizzoli Editore, 1556 pagine, 32 euro.